Cari amiche, cari amici, bentrovati, Radio Alma, martedì sera, siamo in una gelidissima Bruxelles, penso che, come saprete, probabilmente già l'avevo detto varie volte, per raggiungere la sede della radio ci muoviamo in Vespa e credo che fosse davvero da tanto tempo che non percepissi il freddo così come l'ho sentito questa sera. Si dice ci sia una temperatura di meno 7 gradi, quindi insomma, che le temperature tenderanno ancora ad abbassarsi nei prossimi giorni, quindi insomma, spero di non trasformarmi in una stalattite, ce lo auguriamo, speriamo che non. Al massimo ti trasformerai in un pinguino, dai. Beh, lo sapevo, una delle tue solite inutili battute. Salutiamo Dani MRG. Buonasera a tutti e grazie per le inutili battute. Beh, in assenza di George. Siamo orfani ancora questa settimana di Giorgio e Imola che sono dispersi, forse in Siberia, non si sa bene dove. No, Boh. Ci hanno mandato il freddo, dai. sappiamo benissimo dove sono, li salutiamo, sono effettivamente in un altro continente, beati loro, sono in Giappone e martedì prossimo ovviamente saremo abbastanza curiosi di sentire quello che avranno da raccontarci. Tra l'altro per loro non è nemmeno il primo viaggio da quelle parti. Spero solo che non tornino con gli occhi a mandorla perché altrimenti lì insomma la cosa potrebbe diventare preoccupante. Ah sì, non lo so. Comunque l'ultima volta che tornarono, mi ricordo, ci dissero kumma va, quindi la settimana prossima, che è tipo penso che sia ciao ciao in Kun giapponese. va, penso fosse come stai. Ah, una roba del genere. La settimana prossima li accoglieremo così. Buonasera, no, ecco, non ricordo, la mia memoria in merito è abbastanza Poi labile, quindi no, avevano non. promesso di portarci dei contatti giapponesi, vedremo. Lì bisognerebbe poi capire l'intervista in che lingua sarebbe fatta, perché voglio dire, insomma, capisco che posso imparare a dire kun va, però insomma. Un'intervista in giapponese la sosterrei molto difficilmente, proprio farei molta fatica. Tra l'altro, questa sera è una puntata abbastanza particolare, è una puntata, casualmente avevamo parlato del Giappone, ma in realtà non è proprio per nulla dedicata al Giappone, però è dedicata ad un'isola in cui vorrei essere proprio adesso, in questo istante, in cui non sono mai stata, quindi insomma la tentazione è massima, e di Cuba. Quindi stasera parliamo di Cuba. E ne parliamo con due esperti, per ragioni diverse. Uno perché è stato ambasciatore lì per qualche tempo, ambasciatore d'Italia a Cuba, e forse avete già capito di chi si tratta, essendo uno dei nostri ospiti più graditi qui a Bruxellando, perché ogni volta che scrive qualcosa mantiene la sua parola ed è nostro ospite. Mi riferisco al graditissimo ritorno dell'ambasciatore Domenico Vecchioni, che è stato ambasciatore quindi a Cuba e che ha scritto, voi mi direte, probabilmente ha scritto del leader Massimo, e invece no, ha scritto del fratello di Raul Modesto Castro, quindi insomma già quel Modesto probabilmente potrebbe dirla lunga. Una figura sicuramente avvolta nel mistero, di cui si sa poco, e Domenico Vecchioni ce lo fa conoscere meglio proprio grazie ad un libro che vi consiglio veramente di leggere, perché la lettura è molto veloce, edito da Greco Editore, quindi Raul Castro tra passato e futuro. Poi invece, come spesso sta accadendo a Bruxellando, abbiamo un doppio momento, perché come dicevamo siamo orfani di Giorgio, siamo orfani di Fiordaliso, quindi non abbiamo nemmeno il Librangolo. Parleremo a parlare di Cuba, questa volta con uno scrittore cubano, ma residente ormai in Francia da tanti anni, l'amante di Fidel Castro, di Edoardo Manet. Sì, potrebbe sembrare, avete ragione, potrebbe sembrare il nome di quel pittore, se non fosse che c'è una piccolissima differenza proprio in Edoardo, che si scrive differentemente. E Edoardo ci racconterà da dove nasce questa storia abbastanza particolare, e cercheremo di capire in realtà dove finisce il racconto e dove inizia la verità. E quindi io inizierei, se Daniemme è d'accordo in regia. Daniemme, sei ancora arrabbiato con me? Non si sente, quindi vuol dire che non è arrabbiato. E quindi io direi di cominciare la serata con Vecchioni, di cominciare proprio con lui, in maniera tale da cercare di capire proprio questo personaggio, di cui, come dicevamo poc'anzi, poco si sa, quindi una figura veramente estremamente misterioso. E noi saremo curiosi poi di sapere, l'ambasciatore magari ci racconterà, di questo luogo che è avvolto ancora tutto sommato nel mistero di quest'isola, in cui che ha dato vita comunque non solo a personaggi come Raul Castro, ma anche ovviamente a suo fratello Fidel, molto più famoso ed importante, e ovviamente parlando di loro non può che venire anche alla mente il comandante Che Guevara, insomma, che è stato pure recentemente ricordato in un film che è stato anche molto apprezzato. E quindi l'ambasciatore, tra l'altro, ha il privilegio di essere stato a Cuba tanto tempo, quindi insomma probabilmente saprà raccontarci anche qualcosa di più di questo suo romanzo. Ambasciatore? Ambasciatore? Sì. Buonasera, sì. Benvenuto, bentornato a Bruxellando. Ah, grazie, grazie, è sempre un piacere parlare con lei e i suoi colleghi. È il piacere veramente è altrettanto nostro. Tra l'altro ci eravamo lasciati qualche tempo fa con Evita Peron, ci eravamo promessi che ci saremmo risentiti, insomma, non appena l'occasione fosse stata propizia. Eravamo in America, nel continente americano, e restiamo nel continente americano con un personaggio però questa volta diverso, Raul Castro. Molto diverso. Beh, assolutamente diverso. Allora, prima di tutto io ho una domanda abbastanza, una prima domanda prima di passare poi nel cuore del suo libro. È stato ambasciatore a Cuba per qualche anno, e quindi siccome qui a Bruxelles fa freddissimo, probabilmente anche in Italia, sì. Allora vorrei sapere se c'è un ricordo in particolare magari che lo lega all'isola cubana, che però sia caldo, in maniera tale che possa trasportarci un po' di caldo attraverso le onde. Ricordo che la scaldi un po'. Cuba, vabbè, Cuba diciamo si prescinde un po' dal sistema politico e come paese, un paese affascinante, no? Tutti conosciamo un po' la mitologia, che poi insomma corrisponde un po' alla realtà della musica, della cultura, e quindi diciamo da quel punto di vista io mi sono trovato benissimo. Sono stato 4 anni e poi ci si affeziona molto a Cuba, soprattutto ai cubani, che sono persone molto accattivanti, molto, molto simpatici, estroversi, insomma li chiamano un po' i cubani del Caribe, ma perché sono molto, amano come i napoletani la musica, la gestualità, quindi veramente un ricordo molto caldo di Cuba. Quindi quanto ha influito questa sua esperienza di ambasciatore a Cuba poi nella genesi proprio del suo libro? Ma io credo molto, perché diciamo io ho potuto un po' osservare la realtà cubana da un osservatorio privilegiato, che mi ha consentito non solo di avere, vabbè, i contatti ufficiali che un ambasciatore ha con le autorità del posto, con i colleghi, ma anche un po' con appunto con la popolazione, con i cubani. Quindi sono 4 anni, ho avuto occasioni di vedere un po' oltre la Cuba turistica che viene proposta, e quindi da lì c'è stato un po' l'interesse anche di far conoscere questo personaggio così poco conosciuto in Europa, perché è sempre vissuto un po' all'ombra del più famoso certo. Fratello, che è l'icona della rivoluzione, mentre Raul, però adesso è lui che ha le redini del comando, e quindi è lui che ha questa responsabilità di cambiare o di continuare la rivoluzione. Assolutamente. Eppure guardavo una foto stamattina dei due fratelli, a guardarli non si penserebbe nemmeno che sono fratelli. Ma infatti sai che c'è questa questa diceria costante che si ripete a Cuba, e che vorrebbe che in realtà non sono fratelli, ma sarebbero fratellastri, e cioè il padre naturale di Raul sarebbe un cubano di origine cinese, e questo spiegherebbe anche se lei lo guarda bene, i tratti un po'... Sì, assolutamente. Intelligenti, sì. Non è glabro, non ha barba, non c'ha gli occhi leggermente a mandorla, poi l'aspetto è completamente diverso da Raul. E d'altra parte c'è un altro fratello, il fratello più vecchio, diciamo, che si chiama Ramon, e che somiglia moltissimo a Fidel, perché sono entrambi appunto alti, aitanti, e quindi c'è questa voce che cioè, i cubani ne sono convinti, però naturalmente non è stato mai possibile dimostrarlo, e quindi rimane questo dubbio che si basa un po' così appunto su questa poca somiglianza che c'è tra i fratelli, somiglianza fisica ma anche probabilmente nel carattere, un po' in tutto. Certo, c'è un altro aspetto che probabilmente contraddistingue i fratelli, che Raul è stato comunista sin dalle origini, mentre Fidel... Ma sì, questo diciamo almeno è stata un po' l'impressione che ne ho tratto leggendo un po' di biografie su Fidel. All'inizio, comunque Fidel si è dichiarato comunista solo un paio di anni dopo la rivoluzione, cioè, ricordo che nell'aprile del 1959, quindi diciamo 6 mesi dopo la presa del potere, Fidel è negli Stati Uniti e in un famoso discorso fatto all'Associazione degli Editori dice proprio: ho detto e ripeto che non sono comunista e che la collaborazione con gli Stati Uniti è essenziale per lo sviluppo di Cuba. Certo. Mentre nello stesso tempo Raul era già in contatto con i sovietici per negoziare forniture di armi e accordi commerciali molto, molto favorevoli a Cuba, quindi probabilmente Raul è stato insieme a Che Guevara quello che ha spinto di più verso il cambiamento di direzione verso l'Unione Sovietica e anche la sovietizzazione, diciamo, dello Stato cubano. Se lei dovesse farci un profilo di Raul brevemente, anche diciamo in campo diciamo di politica estera, come lo descriverebbe? Ma guardi, Raul bisogna forse ricordarsi sempre questo, che la sua attività è stata sempre un po' così trascurata, no? Perché è stato sempre all'ombra, e, insomma, in genere si conosce Fidel, però se Fidel è rimasto tanti anni al potere, insomma è stato uno dei capi di Stato più longevi, quasi mezzo secolo, molto lo deve proprio a Raul, che ha fatto ha fatto il lavoro dietro le quinte. Raul è stato anche lui per 50 anni ministro della difesa. Della difesa, sì. Come le chiamano le forze armate rivoluzionarie, ed è stato anche per 50 anni il capo dei servizi segreti cubani, che sono tra i più efficienti, più temibili al mondo, no? Qualcuno addirittura li mette al quarto posto dopo gli americani, gli inglesi, i sovietici, ma insomma, e quindi ha svolto un ruolo essenziale, e credo che loro, se sono diversi in tutto, però sono uniti in una sola cosa, cioè nella presa del potere, nella conservazione del potere, e secondo me spesso hanno giocato il gioco delle parti per spiazzare un po' gli osservatori internazionali. È appunto tipico di quello che le dicevo prima, cioè mentre Fidel negli Stati Uniti diceva non sono comunista, certo, l'altro era a Mosca a negoziare assolutamente questi accordi. Quindi il problema, il dilemma è sapere se adesso che cosa vuole Raul Castro, si chiedono, no? Sì. Perché cosa farà soprattutto? Che cosa farà? Sarà lui che traghetterà Cuba verso la modernità, insomma comunque verso forme di democrazia, o lui si limiterà a continuare la rivoluzione guadagnando tempo, governando giorno per giorno in attesa non so di che cosa, perché non è chiara nemmeno qual è il seguito, diciamo, di Raul. Ed è un'impresa un po', diciamo, impossibile, in questo senso che lui sa che deve riformare comunque almeno il settore economico, perché la pressione sociale può diventare troppo forte. Quindi se non riforma, il sistema rischia di implodere. Però se riforma troppo, certo, il sistema rischia di esplodere. Quindi lui sta cercando di introdurre queste riforme economiche, ma sicuramente non andrà oltre un punto che potrebbe comportare delle riforme strutturali in campo politico. Infatti finora sul piano politico non è cambiato praticamente nulla. Lui stesso l'ha ribadito proprio 2 giorni fa, c'è stata una conferenza del Partito Comunista Cubano, e nel suo discorso ha detto: noi non rinunceremo mai al sistema del partito unico. Quindi c'è il partito unico, il sindacato unico, il pensiero unico, certo. C'è un totale controllo dell'informazione, dei mezzi di informazione. C'è solo una piccola breccia adesso, effettivamente, che è data da internet, dai blog indipendenti che cercano di fare qualcosa, però sa che a Cuba non esiste l'internet individuale, cioè l'internet è considerato uno strumento sociale, cioè hanno le istituzioni, gli enti ufficiali, ma il privato non può avere internet, quindi questi blogueros, come li chiamano, sono molto più conosciuti all'estero, la famosa Joanny Sánchez. Certo, assolutamente, sì. Che non a Cuba non le conosce nessuno. Quindi a proposito poi invece della, siamo sempre in politica estera, come vede le relazioni tra Cuba e gli Stati Uniti? Perché questo poi è stato anche uno degli assi portanti del governo di Fidel. Ma diciamo che purtroppo le cose non sono molto cambiate, perché ci sono intanto mi fa pensare un po' all'uovo e alla gallina, chi comincia a dare segni di distensione, perché Raul Castro ha avuto una possibilità importantissima di dare appunto un segnale di distensione poche settimane fa, no? Ha deciso un indulto e ha liberato 2.900 prigionieri. Beh, tra questi tutti si aspettavano che ci sarebbe stato anche, c'è un americano che è detenuto a Cuba e che è accusato dai cubani di spionaggio mentre era lì per motivi, insomma, piuttosto umanitari, per aiutare la collettività ebraica, ma insomma, e naturalmente gli Stati Uniti reclamano la liberazione di questo detenuto, e sarebbe stato un buon segnale, invece non l'ha fatto. Probabilmente per un motivo molto semplice, perché negli Stati Uniti sono detenute 5 spie considerate tali dagli americani, mentre i cubani li considerano degli eroi, e probabilmente si vogliono servire di questo americano detenuto a Cuba per tentare di ottenere una specie di scambio: voi liberate i nostri 5 e noi liberiamo. Comunque adesso con gli Stati Uniti, con l'amministrazione Obama, le cose sono andate un po' meglio, perché ci sono state diverse misure prese dallo stesso Obama, per esempio consentire ai cubano-americani di andare a Cuba molto più spesso, le rimesse che possono fare sono state aumentate, e però si aspetta sempre che da parte cubana ci siano questi famosi segnali che facciano credere che si va verso un'apertura vera, insomma un'apertura politica. Io pensavo a come sono molto più avanti, per esempio, i birmani in Birmania, che era uno degli stati più chiusi al mondo, adesso ci sono state delle elezioni, ci saranno delle elezioni. Si potranno presentare, la stessa San Suu Kyi si potrà presentare con il suo partito, quindi l'opposizione comincia ad avere una voce, tutto questo è ancora impensabile per Cuba, e quindi E poi è chiaro che sui rapporti tra gli Stati Uniti e Cuba influisce la posizione dei cubano-americani della Florida, che sono molto forti, molto potenti, che addirittura in passato hanno con il loro voto condizionato anche l'elezione se non condizionato, comunque contribuito all'elezione di presidenti degli Stati Uniti. Certo, assolutamente. Il loro umore è molto importante, tant'è vero che insomma, i candidati repubblicani tradizionalmente soffiano sul fuoco delle relazioni tra Stati Uniti e Cuba per avere l'appoggio della comunità cubano-americana, quindi sono rapporti molto, molto difficili. Gli Stati Uniti, insomma, che sia l'amministrazione democratica, che è certamente più aperta, quella repubblicana che è un po' più forte, però insomma, finché non ci saranno questi segnali di apertura democratica, non credo che cambieranno significativamente. Quando lei era a Cuba, qual è stata l'impressione che ha avuto dal popolo cubano, in supporto a Raul più che a Fidel o viceversa? Guardi, è molto difficile da dire, innanzitutto perché quando si parla dei cubani di Cuba uno dovrebbe sempre ricordarsi che è un regime che dura da 50 anni, cioè ci sono tre generazioni di cubani che non hanno conosciuto altro. Immagini cosa sarebbe successo in Italia se il fascismo fosse durato 50 anni, o in Germania 50 anni di dittatura, insomma. Quindi per loro è certo difficile pensare a qualcos'altro. Uh-huh. Quindi c'è l'altro aspetto, che il cubano è abituato a non dire ciò che pensa, quindi come prima reazione quando si parla con un cubano c'è sicuramente una reazione ufficiale. No, certo, immagino. Poi forse dopo, quando si è stabilito un rapporto di fiducia, forse perché dicono ma ai cubani stanno bene così, sono abituati, ma non è vero, perché è esigenza di libertà, di poter dire ciò che si pensa, di fare quello che in cui si crede, insomma, è sentito anche dai cubani, soprattutto adesso che si sta allentando un po' la presa nel settore economico, però se poi a un certo punto ci si ferma sempre all'inizio, se si incomincia, poi bisogna pure dare un po' di libertà di intraprendere, di muoversi. Ma infatti l'altra cosa che non ha fatto Raul Castro, che aveva promesso che avrebbe fatto, non ha cambiato le leggi migratorie, per cui da Cuba non si esce e non si entra liberamente, insomma. Sì. Quindi il cubano ha bisogno non solo di uscire, di permesso di uscita, ma anche se poi rimane all'estero più del previsto ha delle conseguenze terribili, non può nemmeno più tornare a Cuba se non con un permesso speciale, quindi quello sarebbe stato un segnale forte di volontà di cambiamento. Insomma, ho l'impressione che loro vogliono conservare il sistema così com'è, con delle correzioni. Infatti Raul Castro non parla mai di riforma, parla di correzioni del sistema, però credo che insomma non possono fermare ulteriormente il tempo. Insomma, se il tempo si è già fermato da 50 anni a Cuba, credo che arriverà una primavera cubana. E chissà, chi può dirlo? Che cosa immagini? Certo. Prego, scusi. No, dicevo, ci vorrà forse un elemento traumatico per coagulare un po' tutte queste forze, perché i critici dicono ma l'opposizione cubana è inconsistente, è divisa, è vero, però non è mica facile fare gli oppositori a Cuba, perché non... certo, non c'è il regime della tortura, nessuno viene ammazzato, insomma, però è anche vero che nel momento in cui lei decide di passare all'opposizione, insomma, di non essere più d'accordo con il regime, lei diventa un escluso della società, cioè perde il posto, ha difficoltà con i vicini, i figli hanno difficoltà a scuola, insomma diventa un paria sociale, per cui è molto difficile fare l'opposizione a Cuba. Questo non vuol dire che non ci sia, ma non riescono, non hanno accesso a niente, non hanno accesso ai giornali, alla televisione, e poi c'è un sistema di controllo del territorio che sa che in ogni quartiere c'è un comitato, si chiama il Comitato della Rivoluzione, che controlla tutto quello che succede, ma anche nelle case, un po' come era il capo fabbricato mussoliniano, memoria, cioè non sfugge nulla, e quindi è molto difficile fare opposizione. E quindi un fatto traumatico, però, come potrebbe essere quando sarà la morte di Fidel. Ma non tanto la morte di Fidel, perché la successione è già avvenuta, c'è Raul Castro, però il problema è cosa è che cosa succede dopo Raul Castro. Esatto. Non hanno ancora risolto il problema della successione di Raul, e spero che non pensino ad una soluzione alla nordcoreana, perché per i cubani non finirà mai, insomma. Speriamo, chissà, chi può dire, insomma, tra i progressi della scienza e i miracoli vari e diversi. Non so, certo, poi le sai che l'aspettativa di vita a Cuba è molto elevata. Immagino. E poi Raul c'ha un figlio che sta scaldando i motori, insomma, c'è un figlio già abbastanza ben inserito, si chiama Alessandro. Porta pure bene, si chiama Alessandro. Certo, ed è guarda caso capo di un organismo dei servizi segreti. No, ovviamente. Di tutti. E chi lo sa, forse sì, perché è strano che non abbiano ancora così, insomma, visto che per quanto sia, ma insomma, Raul Castro è del 31. È del 31, sì. 80, quasi 80, 81 anni. Insomma, 80, quindi, sì. Non è più un ragazzino. Ambasciatore, cosa bolle in pentola? Che sta scrivendo qualcos'altro? Possiamo salutarci ancora con una prossima intervista? C'è sempre una cosa. Quindi non dico a breve scadenza, sennò così gli ascoltatori potranno dire, ma insomma, basta, ambasciatore Vecchioni, però insomma la terrò al corrente, senz'altro, e insomma, se vi fa piacere ci possiamo risentire tra qualche mese. Ma io sono qui, noi siamo qui, anzi, quindi veramente con estremo piacere. La ringraziamo. Complimenti a voi per la trasmissione, che è molto, molto simpatica. Molto, la ringraziamo, molto simpatica, la ringraziamo. Veramente siete molto bravi. Allora, un'ottima serata, ancora buon lavoro. Grazie. E speriamo di risentirci presto. A presto allora. Buonasera. Grazie a voi. Arrivederci, grazie. Cari amiche e cari amici, eccoci nuovamente qui brussellando. Abbiamo appena chiuso la prima parentesi con l'ambasciatore Domenico Vecchioni, il quale ci ha raccontato un po' di Cuba e di Raul Castro. E questa sera restiamo a Cuba, forse perché effettivamente abbiamo bisogno di caldo e di calore in questa freddissima Bruxelles. Intervistiamo invece, come dicevamo in apertura, Edoardo Manet, il quale invece ha scritto un romanzo dedicato a Fidel Castro, l'amante di Fidel. È una storia abbastanza interessante, perché la storia si divide in due parti. Nella prima parte possiamo dire che ci sia una descrizione di un romanzo, potremmo definirlo rosa, e sentimentale, in cui persino le attività dei guerriglieri sono circoncise da questa polvere magica che, come tutti sapete, l'amore spruzza intorno a sé. È anche la descrizione della vita in una ricca famiglia ai tempi di Battista, e immaginate, è colorata di rosa, come i muri delle deliziose case di quel gioiello che è la cittadina di Camagüey. Poi c'è uno stacco. Fidel ha altro a cui pensare. Entra a La Habana all'inizio del 1959, la fanciulla viene raccompagnata a casa, ci sarà un incidente, un mazzo di rose gialle per dire addio, mesi in una casa di cura per la fanciulla. La seconda parte invece si svolge lontano da Cuba ed è la storia delle scelte di vita che la protagonista compie, spinta verso la psicanalisi come conseguenza di quanto le è successo. e deve compiere un lungo percorso prima di arrivare a poter avere il distacco necessario per rifiutare un invito del comandante, che ormai ha quasi 60 anni e neppure la riconosce, e per sbarazzarsi soprattutto di una catenina che un fidel giovane le aveva regalato, pegno evidentemente di un amore menzognero. Quindi, a grossi tratti, questa è questa storia che ci piacerebbe sapere poi quanto ci sia di vero, e quindi è veramente probabilmente uno squarcio profondo su una vicenda a molti già nota, aggiungendo però tratteggi e retroscena sconosciuti con uno stile avvolgente. E poi, insomma, parlare effettivamente sempre di parlare di Fidel comunque effettivamente fa venire anche la pelle d'oca, perché insomma parliamo di uno dei personaggi che più carismaticamente ha saputo condizionare le sorti di un paese, non solo le relazioni poi con uno stato come quello così potente degli Stati Uniti. Pensate che Raul e Fidel, quindi entrambi fratelli, rimaniamo collegati a quelli che dicevamo prima, sono sopravvissuti a ben 10 presidenti americani. Edoardo? Sì. Oh, buonasera. Buonasera. Benvenuto a Brustellando. Grazie mille. Sono molto, molto contento, lieto di essere con voi. Allora, moi je sais que tu parles très bien l'italien. Molto bene, perché aveva degli amici che parlavano tutto il tempo in italiano, ma non lo vedo più, parlo poco, ma è una lingua che è una lingua di cuore per me. Se sei d'accordo continuiamo in italiano, altrimenti in francese, come preferisci? Per me lo stesso. Moi je dirais alors que on parle français. Una parola, possiamo fare una traduzione. Alors, pour nous, c'est la première fois en fait ici à Bruxelles, non? Et donc, j'aimerais que tu puisses raconter à nos amis à l'écoute un peu de ton de ta histoire personnelle. Comme écrivain, ton parcours artistique. Mon parcours è vraiment, vraiment atypique. Dalle chance que je crois que depuis tout petit, depuis l'âge de 7 ans, j'avais envie de raconter des histoires et de danser. Et puis, je me suis développé à un moment donné en faisant des études en Europe, en France, comme acteur, comme mime, comme danseur. Et puis finalement, j'ai fini pour écrire, et c'est ça que je fais en ce moment. Et puis là aussi, mes séjours à Cuba, et puis mon départ de Cuba en 1968. Je suis à Paris depuis 1968. J'écris toujours en français. En français, et puis voilà, mais mon inspiration est toujours Cuba. Alors parfois mes amis me disent pourquoi tu as quitté Cuba si tu ne fais que parler de Cuba, mais bon, c'était une histoire d'idéologie parce que j'avais rencontré les frères Castro, j'étais très ami, très ami de Raoul. On était ensemble à l'université, l'université des droits. Et puis, je connaissais vaguement Fidel avant la Révolution. Et après, bon, à ce moment, depuis les 68, je suis plutôt considéré par eux comme un exilé, comme un opposant. Mais j'essaye de garder, comment dire, vraiment, ce qui m'intéresse, c'est le peuple cubain. De plus en plus, ça ne m'intéresse plus, la question politique, mais le peuple cubain qui mérite, vraiment, vraiment mérite, une vie plus saine à l'échange que en ce moment je vis récemment. Et un document qu'a fait un jeune garçon, le fils d'un ami qui a été à Cuba, avec la technique qu'il y a photographique, il a fait un terrible document très sincère sur la jeunesse, le jeune, les rêves de Cuba. Et plus tellement pour les questions politiques, mais simplement parce qu'ils rêvent. Ils rêvent que les jeunes en France, tous les jeunes vivent très bien, et tous les jeunes aux États-Unis vivent très bien, c'est que nous savons parfaitement que c'est pas vrai du tout. Mais bon, comment faire? Quand on rêve parfois et on finit avec des cauchemars. Ben, peut-être. Ah donc, pour revenir donc au roman, La maîtresse du commandant Castro. Moi, je voudrais partir par l'histoire de la protagoniste, parce que moi, je pense que c'était elle un peu le fil rouge du roman. Qu'est-ce qu'on peut dire sur elle et sur son parcours, parce que c'est un parcours quand même de souffrance. Et j'ai écrit ce livre parce que c'est-à-dire que j'ai expliqué le livre, je ne sais pas si au début ou à la fin, je ne me souviens plus du tout, mais le cas, c'est que quelqu'un, une grande dame, je connaissais, de Madrid, m'a invité à dîner, et puis après le dîner, je ne savais pas qu'elle était déjà très malade, elle est morte quelques mois plus tard. Elle a eu comme envie de me raconter, en tant qu'écrivain, en tant qu'ami, son histoire. Mm-hmm. Et à la fin, elle m'a dit, tu fais ce que tu veux, tu peux t'inspirer, changer, ou ne pas écrire du tout. Mm-hmm. Le temps a passé, j'ai fait d'autres livres, et finalement, un jour, par hasard, chez Lafon, le directeur de Lafon me disait, bon, j'avais signé un contrat pour un livre nouveau, et me disait que mais tu veux parler de quoi? Et tout d'un coup, je lui dis, c'est l'intuition, et il est italien. Et le PDG, à ce moment, je crois que ça a changé maintenant, chez Lafon, je lui dis, j'aimerais écrire sur une fiancée, une amante de Fidel Castro, et tout de suite, bien sûr, la maîtresse du commandant Castro. Parce que c'était comme la maîtresse du lieutenant français, le célèbre livre et film magnifique de Beryl Streep. Et donc tout est venu de ce qu'elle m'a raconté, mais j'ai fait en même temps un travail d'écrivain, de romancier. J'ai changé de personnage, j'ai changé de nom, mais le fond de l'histoire, elle est authentique. Et ce qui m'a passionné dans cette femme et dans cette histoire, cet amour impossible et un amour total pour Fidel Castro. Il a tout quitté, il a tout donné, et lui, comme d'habitude, il a l'habitude de Fidel Castro de trahir les femmes, il a trahi aussi la révolution, on le sait maintenant. Et même lui commence avec la vieillesse et les temps qui passent, commence à se faire calmement, modestement, il commence à se faire l'autocritique de ses erreurs. La première erreur, c'est qu'il a trahi au fond cette révolution que nous avait donnée comme un rêve magnifique. Ah, oui. Il y a encore une autre peculiarité dans les livres, qui est l'amitié entre la protagoniste et Dolores, Lolita. Malgré il y a entre les deux quand même une différence sociale et de classe. Comment on peut expliquer ça? Est-ce que ça fait partie des racines quand même cubaines ou il y a quand même, ou c'est de l'histoire, donc de la fiction? Non. Cuba, c'est une île, c'est magnifique. Mais les gens sont aussi magnifiques. On n'a pas. Il y a beaucoup de tourisme qui va à Cuba, qui vient, il fait ceci, il fait mauvais, la situation, etc. Mais les gens. Mais les gens étaient comme ça, je crois que depuis que Christophe Colomb a découvert les Indiens cubains, il était doux, il ne se bagarrait pas pour défendre les... Non, ils sont morts, les Espagnols l'ont tué, vous savez, en quelques années, ils ont décimé la population cruellement. Les catholiques espagnols ont décimé la population indienne. C'est ça, c'est une aparté pour moi. Mais, c'est-à-dire que c'est vrai qu'il y a une sorte de relation qui est sentimentale, qui est, par exemple, ma mère avait sa meilleure amie, c'était une noire, mm-hmm. Et ma nourrice sainte, dont je parle dans le roman, je crois, et elle était haïtienne, elle est passée avec une famille à Cuba, et elle était vaudou, elle était prêtresse mambo, comme on dit, et c'était pour ma mère, c'était comme une sœur, et pour moi, j'avais deux mères, mm-hmm. La mère blanche, et la mère noire. Mais c'est la même chose dans ces personnages qui ont existé. Elle me parlait, la dame. Elle me parlait, je changeais les noms, parce que c'est Lolita, l'autre est morte, mais Lolita est à Cuba. Elle est une personnalité du mouvement révolutionnaire cubain, elle continue, elle a été fidèle à la révolution à sa manière, mais il existait ça, c'était sa sœur. Elle a été élevée sans aucun préjugé, et à la fin, il y a cette histoire d'amour, l'amour entre la protagoniste est fidèle pour toujours, mais l'amour aussi de sœur à sœur avec Dolores et Lina. Mais donc dans les livres il n'y a que donc la protagoniste, mais il y a aussi Fidel. Et c'est vrai que le portrait que vous avez fait, c'est quand même de quelqu'un de très valeureux, passionnel, comme vous avez dit, quand même tombeur de femme, si on peut dire comme ça. Et pour écrire donc le portrait de Fidel, vous avez dû lire par exemple des discours qu'il a tenus à l'époque, ou je ne sais pas, vous êtes documenté ou c'est sorti comme ça l'écriture? Non, c'est-à-dire que j'avais été là pour faire des études en France et en Europe, déjà 2 ans en Italie, c'est pour ça que je parle l'italien, et que comme mes amis avaient triomphé, pris le pouvoir, la révolution, et ils m'ont tout de suite invité à y revenir à Cuba, et donc je suis allé en 1960. Je suis arrivé à Cuba exactement pour la première année de janvier 1960. La révolution commençait à peine. Et tout de suite, j'étais nommé président de la Société des auteurs, enfin de la Côté Théâtre. On m'a donné la possibilité d'être le directeur général du Théâtre National. Puis on m'a demandé de faire des films, je faisais des films, mais je suivais à un moment donné les actualités, et dans les actualités je suis fidèle ce discours, hein. Et au fond j'étais avec Castro, avec Fidel Castro, dans son premier discours qu'il a fait à l'ONU, et là c'est là où il a raconté tout le monde, il a raconté Nikita Khrushchev, etc. C'est là où s'est marquée la rupture profonde entre Fidel Castro et les États-Unis, et l'histoire d'amour. Au début, c'était une véritable histoire d'amour entre les petits gros nains soviétiques et les grands garçons. Je suivais tout cela, je vous jure, à travers la caméra. Donc, je suivais ça. Donc, connaissant cette manière de parler de Fidel, sa mentalité, ça m'a aidé, évidemment, à écrire le roman. Je n'ai pas eu tellement de recherches de ce point de vue, puisque j'ai vécu la vérité et l'actualité. Et en fait, ça, on peut quand même voir dans le roman, parce qu'il n'y a que la protagoniste ou Fidel, il y a aussi d'autres personnages. Il y a le père donc, de la protagoniste, il y a Cécile, il y a donc Kurt. Il y a un monde, en fait, qui vit autour de ces personnages. Et c'est, moi, je pense, que ça peut représenter aussi Cuba, l'île même, avec ses personnages, sa convivialité, son amour pour la vie, la chanson, la chaleur. Ou je me trompe? Oui, non, pas du tout. C'est-à-dire ça fait partie de Cuba d'avant la Révolution et de Cuba actuellement. Vous savez, on trouve à Cuba tout le monde qui va me le dire, et là, je ne peux pas pour le moment y aller, mais tous mes amis qui vont, on trouve tout, et de plus en plus des Américains, des non-Américains. Je voulais m'intéresser à le parcours de cette dame qui avait quitté malade après la mort de son enfant. Elle avait quitté dans un état de dépression, et moi, à un moment donné, à un moment de mes études, j'aurais voulu être psychanalyste. J'avais commencé à faire des recherches, j'avais un ami psychanalyste, etc. Donc, le personnage de la psychanalyste, pour moi, était très important, parce que c'est un personnage pas comme tous les autres, c'était une psychanalyste. Oui. Et à propos de ça, il tombe amoureuse de Brésil, et surtout de Brésil, de Bahia. Moi, je suis amoureux de Bahia. J'adore Bahia. Le Brésil, et ses gens, et ses chanteurs, c'est de là qu'il y a Marina de Bretagne, et son frère, son éminent frère. Mais aussi, elle est passée en Suède. Et qu'est-ce que vous voulez, j'ai un cœur peut-être très tropical et très grand, parce que j'adore la Suède. le film de Bergman, la Suède, les Suédoises me fascinent, et donc je voulais lui donner un peu de cette... et en plus, ce passage tête cubaine qui est au centre de l'île de Camagüey, au centre de l'île, qui passe à Havane, de Havane elle passe à Boston, Boston elle va finir en Suède, et après il va faire son retour, et il meurt en Espagne, les pays, après tout, c'est notre pays, mes parents, hein. mon père était de Madrid, et ma mère était juive, séfarade andalouse. Donc c'est aussi un très, comment dire, une très belle combinaison aussi de cultures. Mais moi j'avais encore deux autres questions, si le temps nous permettra d'arriver à ça. Vous commencez donc le roman avec Junger de 1868, et c'est la grand-mère qui raconte son histoire, il y a un peu aussi le thème de l'exil. Alors, c'est une métaphore... bien évidemment, je pense aussi de votre parcours personnel. Et dans votre parcours, donc, comme la grand-mère disait au début dans le roman, quels sont les aspects les plus positifs qu'on peut recueillir et raconter à nos amis à l'écoute? Dans mon parcours? Oui. Écoutez, je vais vous dire la vérité en toute sincérité. Il y a le célèbre poème de notre père de la patrie, José Martí, qui disait « Je suis un homme sincère de donde viene la palme. Je suis un homme sincère de où est né le palmier. » Eh bien, je suis un homme sincère, moi aussi, je crois. J'ai dit tout d'ailleurs, sans qu'on ait besoin de me torturer, je dirais tout, la vérité. Et la vérité, c'est que parfois, on me dit l'exil est triste, l'exil est... Oui, il y a des moments que j'ai envie d'aller retourner à Cuba, de faire une promenade comme tout le monde va à Cuba et tout le monde vient, et je ne peux pas pour le moment. Mais c'est des moments parfois de nostalgie, de tristesse. Mais sinon, l'exil m'a permis de travailler mon intérieur, ma vie intérieure, et dans laquelle je vois. Et il y a aussi quelque chose de très particulier, je vous avoue. C'est que comme je n'ai plus de famille à Cuba et j'ai perdu le seul ami à Cuba qui me reste, c'est Raoul Castro. S'il se souvient qu'il est mon ami, peut-être, un jour il va retourner. Mais sinon, ils sont morts. Donc je cherche des familles de remplacement. Et selon mes voyages, j'ai eu des familles au Liban, à Beyrouth, parce que j'ai travaillé à un moment donné comme metteur en scène et comme professeur à Beyrouth. Plus tard, c'était Montréal, j'ai failli devenir québécois, et à un moment donné, j'étais fasciné par les Pays Basques, c'est-à-dire que peut-être la richesse chez moi de l'exil, c'est que j'ai eu des familles, même, je vous l'ai dit, de tout cœur, même à Bruxelles, où j'avais beaucoup d'amis, et aussi à un moment donné, j'ai pensé m'établir, vivre à Bruxelles, comme avaient vécu les grands poètes à un moment donné, quand on était poète maudit, on allait vivre à Bruxelles, évidemment. Alors, ma dernière question, c'est une question aussi de synthèse sur les romans. Donc, les romans parlent de Cuba, parlent aussi de l'Amérique, parlent aussi de l'Europe. Donc, il apparaît être quand même un voyage à travers l'histoire, à travers ses expressions les plus récentes. Il y a surtout une partie... des réflexions entre la protagoniste et Caroline, par exemple, sur la psychanalyse, sur les contestations des années 60 et 70. Mais il y a aussi encore un autre discours entre Heidi et un des sœurs suédoises qui rentre dans le monde de la moda, fashion, avec tous ces problèmes. Donc, il m'a semblé comme s'il y a des sociétés, non, qui bougent en même temps. D'un côté, la société de l'idéologie, telle qu'elle était quand même la Révolution par Fidel et par Che Guevara, qu'on n'a pas mentionné, mais qui quand même est toujours là, comme une ombre qui reste toujours là sulla Révolution. Et de l'autre côté, notre société actuelle. Donc, c'est une société surtout axée à l'image, c'est une société un peu perdue, on peut dire, et parfois pas certes, même de ses valeurs, de ses conquêtes, et on a gagné quand même pas mal de choses pendant le temps. Est-ce que vous, vous, vous, On peut clôturer donc notre interview avec ça, avec cette confrontation entre ces deux époques, la Cuba de Che Guevara et d'un Fidel Jeune, avec pas seulement Cuba, mais aussi la société actuelle d'aujourd'hui. Les rapports. Oui. Écoutez, je reviens à ces documents que j'ai vus, qui sont sur YouTube. Hein. Vous pouvez les chercher sur les jeunes et la révolution cubaine. Et c'est terrible. C'est terrible, comme j'avais connu Che Guevara et son obsession de l'homme nouveau. L'homme nouveau, c'était lui-même. C'est-à-dire Che Guevara qui était tout petit et asthmatique. Il s'est fait une force extraordinaire. Il a vaincu. Il était devenu lui-même pratiquement un monument, tout en ayant son asthme épouvantable. Mais il parlait de cet homme nouveau, de cet homme nouveau. Si Che Guevara revenait sur Terre et voyait les jeunes d'aujourd'hui, je crois qu'il se suicidait. Il y a encore des jeunes cubains qui, pour raison X, sont du côté de la révolution, sont dans les pionniers, etc., etc. Mais je peux assurer que la grande majorité des jeunes cubains ne rêvent que de devenir, hélas, américains. Parce que je les vois. C'est incroyable pour moi. Hein. Il y a eu un moment de persécution à Cuba, des homosexuels, des gens comme ça, c'est passé. On a lutté tous contre ça. C'est fini, on peut le dire. Et maintenant, je vois les punks à l'américaine, les rappeurs à l'américaine, les blacks. Imitent quoi? Imitent les blacks américaines. Et je disais l'autre jour à un musicien, mais qu'est-ce qu'il y a comme musique? On parlait de la musique mexicaine, magnifique. À un moment donné, les rancheras, qui n'en a plus. Et à Cuba, c'est la même chose. De plus en plus, je me dis, mais Eduardo, c'est MTV. Les jeunes, tout dans le monde, regardent MTV et regardent. C'est de la mondialisation et tout le monde chante de la même manière. Et Lady Gaga imite Madonna. Et tout à fait. C'est comme ça. Et donc, c'est triste parce que quand nous étions jeunes, quand j'avais l'âge de jeunes-là, avec Cabrera Infante, l'immense Guillermo Cabrera Infante, Tres Tristes Tigres, et mon ami, comment s'appelle, qui a fait Best Chocolat. Nous étions jeunes et nous étions pleins d'idéologie. Nous étions pour ça proches du Parti communiste, sans être communiste, mais parce que le Parti communiste apportait une sorte d'espoir, de culture, de changement à cette époque. Maintenant que Cuba se dit communiste, la grande partie de la jeunesse ne rêve que de devenir américaine. Hélas, c'est terrible. Nous sommes très très heureux d'avoir écouté donc aussi votre histoire. Je vais simplement dire que votre roman a été aussi traduit en italien, L'amante di Fidel Castro, édition Leone Editore, qui a été traduit en 2011. Donc pour tous ceux qui souhaitent le lire, c'est possible. Et je voudrais aussi remercier Grandi Associati, parce qu'en fait j'ai connu de votre œuvre à travers Grandi Associati qui collaborent avec nous, donc nous sommes très heureux de ça. Et si vous allez encore écrire ou des romans, des histoires, des contes, n'importe, on pourra toujours en parler ici à Bruxellando en direct comme on l'a fait ce soir. Je suis très touché. J'ai publié un livre l'année dernière, c'était dans lequel mon papa disait que nous descendions des manets et des pentes. Je trouve de ça. Le FIF s'appelle, pour le moment, est traduit en espagnol, hein. Ah. Encore en italien, mais j'espère que tu l'as traduit en italien. Bah, on l'espère, sinon, espérons-le. Un livre dans lequel je vais dire tout sur mon séjour en France et mes relations avec les Français. D'accord. Des droites et des gauches et des milieux aussi. Alors peut-être on va en parler dès que le livre sort aussi en italien. Monsieur Manet, nous vous remercions. Encore une très bonne soirée et on se tient donc en contact. Arrivederci. À votre disposition. Oui. Au revoir. Arrivederci. Ed eccoci nuovamente qui, quindi è stata effettivamente una serata vibrante sulle onde di Radio Alma Brussellando, una puntata con questo freddo dedicata interamente alla calda Cuba. Una serata cubana. Una serata cubana, tra l'altro c'è stato anche un piccolissimo mix di musica spagnola che prima non ho potuto nemmeno sottolineare. Ringrazio Dani M in regia. Grazie a voi. Io saluto i nostri George e Fiordaliso che saranno di ritorno martedì prossimo. Martedì spero. È una puntata ricchissima perché abbiamo ancora due ospiti e c'è un tema molto interessante che è legato al calcio. Pensate che si stanno elaborando teorie molto interessanti. Il titolo del libro è La scienza nel pallone. Quindi veramente invito tutti coloro i quali amano il calcio ad ascoltarci perché effettivamente ne vale la pena e scoprirete tante tante cose. Vi lascio con questo quesito. Si tratta di una sfera o di una palla? E la risposta potete averla solo martedì prossimo. Maridì vi saluta e vi augura una splendida, fredda, gelata settimana. A presto! Grazie Maridì, ciao!